later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli le uova si schiudono e i colli si tagliano, Kappa e Drago si accorgono che la fabbrica è infinita. Ma Kappa, sempre qualcosa da fare tu. Dai, fa bene fare le scale, su, senza lamentarsi, Drago, fa bene al culo, dai. E poi in fondo a questa scala possiamo finalmente vedere la fabbrica dall'alto e quindi capire dove sono i confini del mondo. Quale mondo? Della fabbrica, insomma. Vabbè, stiamo salendo da un sacco di tempo. Adesso che ora è? È mezzanotte. Tu guarda se io a mezzanotte devo salire su per una scala arrugginita solo perché il mio amico è curioso di scoprire una cosa che per noi è completamente ininfluente. Perché invece di parlare non sali le scale? Kappa, io a volte se mi metto a ragionare in modo lucido, mi chiedo come sia finito dentro questo incubo sgangherato. È il destino, Drago. È il destino. Le destin, Ricordati sempre di Napoleone e Giuseppina. Come? Ma sì, il regalo di nozze, la parola destin. Però adesso fermiamoci un attimo, dai. E poi Napoleone e Giuseppina erano marito e moglie, noi no. Vabbè, ma come sei retro, Drago? Marito e moglie, soci, amici, dai, ormai le famiglie tradizionali non esistono più. Esistono le coppie di fatto. Sì, coppie di fatto. Io e te, Tarek e il pollo, queste sono coppie di fatto. Batman e Robin. Cocchi e Renato, Bersani e Tremonti. Insomma, quelli che sono stati accoppiati dal destino con la D maiuscola. Le destin, Drago. Lars von Trier e Sergio Balzani, allora. No, sei sempre approssimativo, Drago. Lars e Sergio sono la stessa persona, è diverso. Vedi puntata numero 94. Sì, ma qual è l'originale? In che senso? Ci sarà stata una mamma incinta che dopo 9 mesi ha partorito quell'individuo lì che, più avanti, sarebbe diventato al contempo Lars e Sergio. Ecco, dico, questa mamma, quando il bebè è nato, cos'è che ha detto? Ah, il mio Lars! Oppure, ah, il mio Sergino! Ma che Serginio? Sergino Balzanini. Questa, Drago, è una bella domanda. E quindi la mia seconda bella domanda è: nei tardi anni 60, un adolescente danese ricco di immaginazione sviluppa una seconda personalità e diventa capo scout a Firenze? Oppure un capo scout fiorentino improvvisamente viene rapito dalla passione per il cinema sperimentale e inizia una vita parallela in Danimarca? È come la questione dell'uovo e della gallina. Un regista danese di grande successo diventa sotto mentite spoglie direttore di 2 canali radiofonici nazionali italiani o viceversa? Non è mica una domanda da poco. Io proverei a farla a Valzania. O a Lars von Trier. Sì, ma Valzania in qualche modo è un po' più a portata di mano, il direttore. Però il problema è come affrontare il discorso. Non è che puoi chiamare Valzani e dirgli: buongiorno, abbiamo scoperto che lei è Lars von Trier. No? Lui non vuole che si sappia, capito? È il suo piccolo segreto, quindi... Piccolo. Comunque hai ragione, non sarà facile farlo confessare. Pronto? Pronto, direttore. Ma scusi, è vero che lei è Lars von Trier? Cioè che lei, oltre a essere il direttore della fabbrica di polli, è anche un famoso regista di film sperimentali? No, non è vero che sono un regista di cinema sperimentale. Ma a lei, come Sergio Valzania, piacciono i film di Lars von Trier? No, però piacciono molto a mia moglie e questo mi mette dei dubbi ogni tanto. Perché noi ci siamo anche chiesti, lei come Sergio Valzania ha una moglie, ma quando lei è Lars von Trier ha un'altra vita in Danimarca? È questo che ci incuriosisce. Questo è possibile. C'ho una moglie che apprezza molto i film di Valzania in quel caso. Infatti. Il pollo come sta? Il pollo è già andato a dormire perché va a dormire all'ora dei polli, quindi... Ah, vabbè, allora... Ma lì è sempre mezzanotte, però. Oh, mio Dio! Cosa c'è? È mezzanotte! Hai deciso di bivaccare a metà della scala, Drago, dai! Su, continuiamo a salire, dai, coraggio, su. Non dirmi coraggio, che se c'è una cosa che mi innervosisce è quando ti dicono coraggio, t'abbraccio, coraggio. Coraggio, drago, t'abbraccio. Dai, andiamo, mangiamo l'abbacchio, t'abbraccio. Dai, andiamo, t'abbraccio con l'abbacchio. Ma non con l'abbacchio. Col tabacco, mi fumo il tabacco, t'abbraccio con l'abbacchio. Coraggio, drago. No. Dice che stai a fa, dico, sto a cucinare. Dice che cazzo stai a cucinare, dico sto a fa i pizzoccheri a Valtellinese. Dice te sei ammattito, ma fatte una matriciana. Dico non c'avevo in casa manco netto de guanciale. Dice cazzo me chiamavi te, portavo tutto il maiale. Semo, semo de Roma, de Roma, e niente ci può cambiare. Ci piacciono i polli, i polli, l'abbacchio, le galline, non ci piace il baccalà. Semo, semo di Roma, Roma, è questa la verità. La fabbrica di polli. Allora, compagni e compagni, come diceva il glorioso elettricista di Danzica, Lech Walesa, voi ci operate che ai carri armati ci penso io. Intendeva i carri armati sovietici, E in questo caso io vi dico, voi ci operate che ai carri armati ci pensiamo più tardi. Lo so che non è la stessa cosa, ma io non ho la statura né morale né politica di Lech Walesa, Vorrei ottenere gli stessi risultati, ma poi il momento buono me la faccio sotto. Comunque, continuate a incrociare le zampe e tutto sta andando molto bene. Siamo pronti a rivendicare il nostro diritto a un trattamento degno delle bestie che siamo. Perché essere bestie non è come essere un tavolo. Un tavolo può anche lasciarlo lì 30 anni e non cambia. Noi abbiamo bisogno di cure e di un trattamento dignitoso, altrimenti cambiamo il come. In peggio, e moriamo. Quindi il mio consiglio è incrociate le zampe. Però, se poi volete fare un po' di stretching per via dell'indolenzimento, fate pure, E non prendetemi sempre la lettera, You are the cattle, and we are the keepers. Gli animali si stanno organizzando. Gli animali non possono più aspettare. Gli animali non avranno pietà. Gli animali ci sorprenderanno. È già pronta per ogni essere umano. Una piccola, privata, personale, ma non per questo meno spietata, Nuremberga degli animali. La fabbrica di polli. Ecco, dai. Dai che siamo quasi arrivati. Questa dannata scala. Drago, un ultimo sforzo e potremo riposarci. Guardando poi tutta la fabbrica dall'alto, pensa che bello. Cos'è che c'è in cima a questa scala? Sembra il cavalcavia di un'autostrada. No, è il cavalcavia dell'autostrada. Eh sì, l'ampliamento della fabbrica non ha risparmiato niente e quindi c'è anche dentro il cavalcavia dell'autostrada. Magari la stessa autostrada che abbiamo imboccato noi quella notte in mezzo alla nebbia. Quando ci siamo persi, ci siamo ritrovati nella fabbrica, Guarda, eccoci qui. Ma guarda che meraviglia. Ma quale meraviglia? Beh, dai, a quest'altezza si vedono i limiti estremi della fabbrica. Io non vedo niente. Vabbè, i limiti si intuiscono, Vedi, a me laggiù sembra di vedere il mare, com'è il mare? Il mare? Se la fabbrica si espande su quattro lati a velocità impressionante, è facile che prima o poi ci sia anche il mare. E il mare viene incluso nella fabbrica? In un certo senso sì. Io non so bene quello che sto dicendo, c'è un po' di fiatone. Mi fa piacere. Ecco, adesso che abbiamo visto il mare, dobbiamo ridiscendere. Coraggio, drago! Coraggio, la dura vita dell'avventuriero, drago. Su e giù dalle scale, coraggio. Ma quale avventuriero e quale coraggio? Namo, coraggio, t'abbraccio, l'abbacchio. Ma che abbacchio? Namo, coraggio con l'abbacchio, cioè trabracchio. Coraggio. Che cosa succederà adesso? L'abbacchio e l'abbraccio faranno coraggio a Kappa e Drago? Namo coraggio, drago d'abbraccio. Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo T'abbraccio, abbacchio coraggioso allestimento de... La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica